Vendo tutto di Matteo Caccia. Da qualche tempo vivo senza la Vespa, senza la TV e senza la mia borsa a tracolla. Non gioco più a tennis, non scio e non vado più a teatro. Eppure vivo bene uguale. Continuo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Ne inizio una nuova io, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un flauto dolce. Si sente tanto che mi sono ostionato la lingua col tè ieri. E sai quella roba che bevi e ti rimane, c'ho tutta la lingua e... Ma non è di questo che vogliamo parlare. Chiedevo però un'opinione ad Anita Panizza, che oggi è assistente volontario al posto di Laura Faggin, perché Laura Faggin si è bevuta l'impossibile venerdì sera ed è stata male ed è rimasta a Padova. Salutiamo anche lei e parliamo invece del flauto dolce che vendo oggi, perché è un po' una storia a metà tra un fallimento mancato e avere tenuto duro e avercela fatta, più o meno, insomma. 800240024 349-238-6666. Avete presente quando siete dei ragazzi, ma anche no, quando ci avete 30 o 40 anni, che vi viene il pallino per fare una cosa, no? Avete voglia di fare un'attività sportiva, che so, avete voglia di cominciare a sciare, per dirne una semplice, e intorno cominciano a dirvi: guarda, lascia stare, poi magari fate una lezione, ma forse non è il tuo sport, lascia perdere, fai qualcosa di più statico, fai qualcosa che magari coinvolge meno il fisico perché non ce la fai più oppure non sei portato. Voi invece tenete duro, andate avanti e alla fine ce la fate, e magari quella roba lì la fate anche bene. Ecco, è di questo che parliamo oggi. 800240024, vale per tutto, eh? Vale per gli sport, per il calcio, vale per il tennis, vale per lo sci d'acqua, ma vale anche per le attività professionali, cioè... Ad esempio, gente che cambia lavoro, no? Gente che cambia lavoro da un giorno all'altro, faceva il ferroviere e si mette a fare, che so io, si mette a lavorare nel campo della musica, come mi raccontava prima Tiziano Bonini. È chiaro che a quello, quando ha cominciato, dice: ma guarda, ma lascia stare, ma è una cosa che è difficilissimo, è un casino. Invece quello va avanti e ce la fa. 800240024, vale per gli studi, ad esempio. Vorrei tanto fare lettere. No, guarda, lettere, poi non trovi lavoro, fai ingegneria o fai economia oppure fai l'avvocato. E invece no, avete studiato lettere e qualcosa, anche, guarda, uno straccio di lavoro ce l'avete. 800240024, anche quelli, ad esempio, quelli che si vogliono trasferire negli altri paesi, no? E dicono: guarda, non andare in quel paese non ce la farai mai, non resisti più di una settimana. E invece ci vivete, siete felici. 800240024. L'ultimo esempio è quello della musica, perché è proprio di musica che parlo oggi. Parlo del mio flauto dolce e di come ho tenuto duro. E anche se alla fine il mio maestro mi disse lascia stare, io ho proseguito e sono entrato nella banda del paese. Ebbene, se voi non eravate portati per la musica, ma avete tenuto duro, ce la fate. Non solo ce la fate, ce l'avete fatta, ma magari avete lo strumento tra le mani in questo momento, chiamate e mi date prova che ce l'avete fatta. 800240024, se no un sms al 349-238-6666. Avete presente com'è un flauto dolce? È un flauto di quelli che si suona così. Il flauto traverso è quello che invece si suona così. Per vederlo, radio24.it, per sentire la sua storia, eccoci qua. Il flauto. Flauto dolce, modello Melux Recorder, corpo in legno, becco in plastica. Lunghezza 32 cm, diametro massimo 2,5 cm. Perfetto per partire dall'ABC della musica o per suonare fra Martino Campanaro. Valore commerciale 11 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Da piccolo i miei hanno cercato in tutti i modi di farmi imparare a suonare uno strumento. Inutile dire che non ce l'hanno fatta. Ho già venduto la chitarra, che fu un fallimento gigantesco, e il violino, che invece trovai per caso su un treno. Ma quella del mio flauto è la storia più triste che si possa immaginare per uno strumento musicale. Mio padre sosteneva che imparare uno strumento da bambini era come studiare il greco, una sorta di regolamentazione del cervello. Diceva che la musica insegna disciplina e regala fantasia. Parlava sempre della musica come fosse una cosa imprescindibile nella vita di una persona. Io all'epoca ero troppo piccolo per ribattergli che se la musica era così importante, allora perché lui non sapeva suonare manco un fischietto? Un suo caro amico d'infanzia, uno di quelli che se anche poi nella vita fai altro, rimani sempre un amico d'infanzia, era un musicista. suonava praticamente tutti gli strumenti a fiato: il sax, la tromba, il trombone, l'oboe, insomma tutta quella roba lì. Era sempre in giro in tournée e quindi l'avevo visto poche volte. E quelle poche volte mi era apparso una persona ombrosa, una di quelle persone a cui i bambini non piacciono. Si chiamava Tullio. Era alto e allampanato. Vestiva sempre con abiti che gli cadevano addosso come fosse uno spaventapasseri. Quando avevo circa 13 anni, mio padre un giorno decise che dovevo andare a lezione da lui, perché mi avrebbe introdotto ai misteri del pentagramma. E io partì con uno strumento semplice, un banalissimo flauto. Con tutti gli insegnanti di musica, come tutti gli insegnanti di musica, Tullio iniziò dal solfeggio e come tutti gli allievi, io mi annoiai in un attimo. Le lezioni avvenivano in casa sua, dove viveva ancora con la madre, anche se lui aveva l'età di mio padre. La casa era sempre tirata lucido, però era buia come una chiesa, con le tapparelle abbassate anche in inverno e il riscaldamento al minimo. Sua mamma era una donna minuta e coriacea. Quando arrivavo mi offriva sempre un caffè, anche se avevo 13 anni. Lui, quando arrivavo, si sedeva su una vecchia poltrona in pelle, mi guardava senza dire niente e io attaccavo a suonare. O almeno ci provavo. Non commentava mai. Non diceva mai nulla di buono o di cattivo. Aspettava che finisse l'esercizio e poi sussurrava da capo. Un po' lo odiavo e un po' no. Mi sembrava impossibile che una persona fosse così priva di umanità. Non mi chiamava mai per nome e a me da bambino piaceva essere chiamato per nome, anche se non so bene il perché. Ma soprattutto non prendeva mai in mano uno strumento, nemmeno il suo clarinetto. Arrivai addirittura a pensare che non fosse capace di suonarlo. Finché un giorno entrai in casa e mentre la mamma mi offriva il solito caffè, lo sentii suonare questa cosa qui. Non c'era niente da fare però, non ero portato per la musica. Tullio se ne accorse dopo poche lezioni e devo dire che fu molto più gentile di quanto potessi immaginare. Avevo appena comprato il flauto, quello che vendo oggi. Entrai in casa sua, lo tirai fuori dalla custodia, ma Tullio mi disse di accomodarmi. Mi fece sedere sulla poltrona dove di solito stava lui e mi fece un discorso semplice e inappuntabile. Mi disse che ognuno di noi ha qualcosa dentro di lui, un seme, che vale la pena essere coltivato. Disse che ci sono persone che passano gran parte della propria vita accudendo questo seme, concimandolo, coccolandolo per farlo germogliare, perché vogliono mostrare a tutti il loro fiore, vogliono farlo vedere a tutto il mondo. Ci mettono impegno, dedizione e tempo. Molto tempo. Aspettano anni in attesa del loro fiore. E quando si accorgono che non sboccia, capiscono che hanno sbagliato seme. Ormai è troppo tardi per coltivarne un altro, per coltivare il loro, quello che doveva essere annaffiato. Mi raccontò questa storia con molto garbo, molta malinconia, come se il protagonista di quella storia non fossi io ma lui. Poi prese il telefono, chiamò mio padre e gli disse che non mi avrebbe mai più fatto lezione, che in realtà a me della musica non interessava nulla e che lui non aveva tempo da perdere con un ragazzino. Disse queste cose strizzandomi l'occhio in un gesto d'intesa che non dimenticherò mai, una sorta di alleanza tra un bambino e un uomo all'insaputa di un altro adulto. Tornai a casa con il mio flauto nuovo, non ancora suonato. E però decisi che anche se non sarei diventato un musicista, io volevo dare un senso a quello strumento. E lì iniziai una carriera alternativa, quella che prima o poi capita a tutti i musicisti che hanno fallito ma che vogliono continuare a divertirsi tenendo in mano uno strumento. Entrai nella banda del paese. Non c'è nulla di matematico o di musicale nella banda del paese, e questo è proprio il suo bello. Che chiunque, se appena appena sa mettere insieme un paio di note, può infilarsi in una banda. Perché da solo si sente subito se fai una faccata. Ma se suoni in mezzo a 30 persone che fanno tutto quel frastuono, ma chi se ne frega se fai un solo al posto di un do? Perché la banda suona per le strade. La si sente arrivare da lontano, come un boato. E anche se non si capisce che cosa stia suonando, la gente corre alle finestre, scende per le strade perché sta passando la banda. E non importa se le camicie non sono tutte uguali, i pantaloni sono un po' neri o un po' blu, non importa, perché la banda è una festa. E anche io, che non avrei mai più suonato in vita mia, che non avevo il seme della musica, beh, anche io potevo stare in piedi in mezzo agli altri e camminare con la schiena dritta e il mio flauto tra le mani, perché la banda è sempre la banda. Eppure, come sempre, nonostante tutto, nonostante Tullio e nonostante il seme da coltivare, questo flauto è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 11 euro. La base d'asta qui parte a 99 centesimi. Se a dispetto dei consigli di tutti voi avete tenuto duro e alla fine fate quello che vi piace, 80024 0024. Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la batta. Zero 0024, perché ce n'è di gente che tiene duro nonostante i consigli negativi degli altri. Ho 40 anni, mi è arrivato proprio oggi un Teremin in miniatura da Hong Kong. Voglio imparare a suonarlo, fammi gli auguri. Ti faccio gli auguri, ma vorrei anche capire che cos'è un Teremin, così lo sappiamo tutti. Matteo, a me dicevano che non sarei mai riuscito ad andare a lavorare a Milano e che con il lavoro di borsa non sarei mai durato. Ora sono qui, appeso, e meglio o meglio aggrappato a Milano. È sopravvissuto anche alla catastrofe Lehman. 80024 0024 349 238 6666. Sentiamo quelli che gli dicevano, guarda, lascia stare. E invece hanno continuato. Andrea da Bari, pronto? Ciao, buonasera. Ciao Andrea, buongiorno. Scusami. Buonasera, come stai? Beh, bene, tutto a posto, grazie. Senti, qual è la tua esperienza? Cosa ti dicevano di lasciare, che era meglio lasciare stare invece alla fine? Io ero il classico studente di liceo bravo in matematica, che tutto doveva fare meno che lettere. Peccato che poi in quinta liceo ebbi un incontro con una professoressa di italiano che ci sapeva fare. Sì. E allora mi riscoprì buon scrittore e soprattutto detti un po' sfogo a quella che è sempre stata la mia passione, cioè la curiosità, e niente, mi si interessa di fare giornalista. Solo che poi la maturità purtroppo detti retta alla mia inclinazione matematica e mi iscrissi a ingegneria. E ti riassumo solo la faccenda che al volo, Andrea, sono arrivato a un esaurimento nervoso che in pratica poi andiamo a fare lettere e ora mi ritrovo a 32 anni, sono un giornalista felice. Olè, grazie mille. Ce l'ho fatta. Grazie Andrea, buona giornata. Ciao. Ciao, andiamo ad Alessandria da Eleonora. Pronto? Ciao Eleonora. E io sono Matteo, perfetto, quindi siamo in due, ci siamo ritrovati. Tu sei quella che cercavo o io sono quella che cercavi? Sì. Quindi raccontami la tua esperienza. Mi sono sposata 16 anni fa, ero molto giovane, avevo 21 anni, sono anche straniera perché arrivo dalla Russia. E non avrei mai pensato che a 37 anni mi troverò con 4 figli. E hai 4 figli adesso? E ho 4 figli. Quanti anni hanno? E la prima ha 12, seconda 9, terza 5 e quarto 3 anni. È tosta avere 4 figli? Sì, è tosta sicuramente, però è anche molto molto bello. Senti, come mai sei arrivata dalla Russia? Per amore, immagino, o per lavoro? Sì, ho conosciuto mio marito lì in Russia e niente, mi ha invitato a venire qui e poi ci siamo sposati. Benissimo, Eleonora, ti ringrazio e ti faccio tanti auguri. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo allora, provincia di Torino, Marco. Pronto, ciao. Ciao Marco. Ciao, come va? Bene, tu come va? Molto bene. Allora, dimmi, raccontami la tua storia, veloce, che mi sembra interessante. È abbastanza veloce. Perché ho iniziato a 16 anni a fare wrestling. In pratica prendevo tutti i giorni il treno e andavo fino a Milano, da Torino. Perché scusami, ci sono delle scuole di wrestling a Milano? Praticamente tutti tutto il nord Italia, all'incirca, tutto il nord Italia. Ricordiamo che cos'è il wrestling per quelli che magari non sappiano. È una sorta di spettacolo, lotta. Lotta, spettacolo, sport spettacolo. Quello che si vede in televisione. Che è tipicamente americana, giusto Marco? Esatto. Ok. Sì, esatto. Invece tu, immagino che molti ti dicessero, guarda. Sì, ma lascia perdere, una buffonata, non ce la farei mai. E dopo 5 anni adesso giro l'Italia con una federazione, ho fatto spettacoli in tutto il nord Italia e un paio anche in Europa. Ma senti Marco, scusami, tu sei grande grosso, cioè bisogna avere una certa struttura fisica oppure... No, l'importante è di essere molto preparato fisicamente, nel senso che prima di poter fare un certo tipo di mosse bisogna avere una preparazione fisica. Ma scusami, quante delle mosse che fate sono spettacolo e quante invece sono concrete? Cioè quanto mazzate vi date realmente e quanto no? diciamo che la realtà dipende da quanto una persona riesce a, diciamo, ad evitare di fare male il partner. Insomma, perché in pratica, addirittura non è nemmeno l'avversario, è proprio il partner, lo chiamate esatto, così? Esatto, perché prima di ogni incontro ci si decide che genere di mosse si eseguono. Chiaro, chiaro, chiaro. In pratica, come fare uno spettacolo. Marco, senti, io purtroppo ti devo salutare, mi dici dove è possibile vederti, se fai qualche combattimento in futuro? La federazione si chiama Italian Championship Wrestling. Ok, perfetto, quindi cerchiamo lì sul sito. Grazie mille, grazie mille. Ciao Marco, buona giornata. Ciao, ciao. Visto che qua si continua a vendere, vi racconto che cosa faccio con i soldi che sto guadagnando. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Hai presente quel videogame musicale da sala giochi dove bisogna muoversi a ritmo su una pedana seguendo le frecce sul monitor? Ecco, la prima volta che provai mi fu detto che ero troppo scordinato e rigido per riuscire. Bene, ora sono tra i migliori giocatori d'Italia, perché la realtà supera sempre la fantasia. Grazie a tutti, grazie a Danita Panizza, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleone. Il flauto lo vedete come al solito su radio24.it o sul Facebook Matteo Caccia, vendo tutto. Domani vendo l'aspirapolvere. Se siete ancora in tempo, imparate a suonare uno strumento, che la musica è sempre la musica. Love, wherever you